100 euro su 2 anni corrispondono a 120 su 2 anni e 6 mesi, quindi non c'è nessuna particolare modifica. C'è un arretramento rispetto alla parificazione che c'era stata proposta per gli impiegati, perché per i nuovi assunti non sono più 5 giorni di ferie dopo i 18 anni di lavoro, sono diventati 3 giorni di ferie, e per cui ad esempio per gli impiegati ci sarebbe una modifica in negativo della normativa attuale, con la perdita di 2 giorni di ferie. Nello stesso tempo, per quanto riguarda l'orario, è evidente che siamo di fronte al fatto, io dico insomma, che ci vuole anche un limite, che a fronte di una proposta che è rapportata alla nostra è di fatto di 100 euro, si chiedono 2 sabati obbligatori.